Ad alta voce. Tony Servillo legge Il giorno del giudizio di Salvatore Satta. Nuoro non era che un nido di corvi, eppure era, come e più della Gallia, divisa in tre parti. La storia di Nuoro, se storia si potevano chiamare le notizie che canonico Fele in fama di dotto aveva raccolto negli archivi dell'Episcopio, del resto canonico Fele non era norese, era di Dorgali, e bastava vedere, anche senza sentirlo parlare, il suo viso lungo e magro, gli occhi astuti e sbiaditi, il mento lungo sotto le labbra porporine da febbricitante. Un rettile lo definiva quasi a voce alta canonico Floris quando lo vedeva passare. Non andava di là da 200-300 anni. La vera capitale, sembra impossibile, non era allora Nuoro, era Galtellì, il paesetto della baronia lungo il Cedrino, appena arretrato dal mare. Ne rimane la traccia nel titolo della diocesi, che non è di Nuoro, ma di Galtellì e Nuoro, e Galtellì prima di Nuoro. Pare, anzi, che fosse proprio un vescovo Roic, uno spagnolo o mezzo spagnolo, evidentemente, a disporre che la sede episcopale fosse trasferita altrove, 30 chilometri più indentro, nel luogo ove doveva sorgere Nuoro. La baronia era d'inverno un giardino, e se il fiume diventava pazzo di quando in quando e straripava e inondava i campi e isolava gli assurdi villaggetti che erano sorti, chissà come e chissà perché, nella vasta piana, quando si ritraeva e si componeva in una mite corrente e qua e là sostava in chiazze azzurre che parevano pezzi di cielo, lasciava a compenso tra i sassi una terra sottile, umida, che era già grano, orzo. Erano soprattutto le fave e quei meloni dalla polpa azzurrina che spandevano il nome di baronia per tutta la Sardegna. Che profumi tra i canneti, nella macchia popolata di lepri e di pernici, quando tornava il sole a risuscitare i ceppi morti e abbandonati dei bassi vigneti. Il guaio era che il paradiso in baronia durava 3 mesi. Dopo il sole diventava cattivo, si metteva a pentirsi della gioia che aveva portato tra gli uomini, impazziva anche lui. In una settimana portava il deserto e quel che è peggio, poiché il caldo si può sopportare, uscivano da quelle gore alle quali tra i ciuffi di oleandri si era ridotto il Cedrino eserciti di zanzare portatrici di morte. I contadini crollavano con la falce nel pugno, le porte e le finestre si chiudevano come davanti a un invasore, le donne ischeletrivano, i bambini dei poveri erravano per le strade in carta picoriti e con le pance grosse di 9 mesi. Sulla baronia era scesa la maledizione. E così Monsignor Roic, uomo pratico come tutti i forestieri, appena venuto, decise di prendere la mitria e portarla al fresco. Io credo che questa storia, o altra simile, non importa, sia vera. Galtellì oggi è nulla, una grinza, una scrostatura in mezzo al feroce calcare di Monte Columbu. Ma chi arrivi a superare i nugoli di mosche e di polvere si trova davanti a una chiesa e a un campanile che sono rimasti, anche se il vescovo se n'è andato, e sono del più puro stile romanico, tuguri sudici e miserabili, ma accanto ai quali sono ancora in piedi palazzi corrosi, deserti, con 2 tavole in croce al posto delle finestre, ma con un portale scolpito o almeno con un architrave di pietra vulcanica sulla quale, volendo, si può decifrare un anno lontano. E al di là di un'inferriata rugginosa si può vedere o sognare quello che ai bei tempi fu un patio, senza contare che In qualcuna di queste vecchie case o nelle loro dipendenze si possono intravedere fioche ombre di donne che sono o furono delle Sanna, delle Bellisai, le vere Sanna e le vere Bellisai forse, anche se povere e rassegnate. Una di queste, anzi di recente, aveva avuto una certa rifioritura perché un proprietariotto del luogo, vestito in costume, aveva osato bussare alla sua porta ed essa aveva avuto la saggezza di non dire di no. Nuoro, con tutta l'albagia dei suoi casoni governativi, neppure se li sogna la chiesa, i palazzi o i ruderi di Galtellì. Dunque deve essere proprio vero quello che dicono. Eppure rimane un mistero. 2-3 secoli fa Nuoro non esisteva neppure come un nucleo di capanne. Nessuna delle carte antiche della Sardegna, che pure riportano i nomi rimasti oscuri di Ollolai, Orani, persino Orzullè, porta il nome di Nuoro. Questo vuol dire che Monsignor Roic ha messo la prima pietra, come hanno fatto a Brasilia o a Canberra, e ha popolato la nuova capitale coi suoi preti e i suoi parrocchiani di Galtellì. Ora, se io guardo la gente di Galtellì, e sono i resti di quella di allora, se io vedo gli uomini asciutti, sottili, col giubbone rosso aperto da un lato sul petto, il passo leggero e quasi danzante, se ascolto il loro parlare sfumato e quasi aspirato, mi sembrano, Dio mi perdoni se c'è offesa, delle marionette. E se fossi musicista ne verrebbe fuori un balletto, altro che questo libro. E poi sono buoni, miti, e le loro donne, nella effimera giovinezza, hanno i seni tanto prorompenti che li imbrigliano con 2 cordicelle. La gente di Nuoro sembra un corpo di guardia di un castello malfamato, cupi, chiusi, uomini e donne in un costume severo che cede appena quanto basta alla lusinga del colore, l'occhio vigile per l'offesa e per la difesa, smodati nel bere e nel mangiare, intelligenti e infidi. Come da quelle marionette serene possono essere venuti fuori questi personaggi da tragedia? Io mi spiego il mistero pensando che, come accade ancora oggi quando l'organizzazione sociale viola le leggi di natura e ti crea province, regioni o altre diavolerie amministrative, all'avvento del vescovato si siano mossi dalle selve della circostante Barbagia quegli uomini agresti che, come dice il poeta, si cibano di carne e miele e si siano insediati intorno al prelato e al suo capitolo con la loro forza e le loro capanne. Vero è anche che negli immediati dintorni di Nuoro si trova qualche domus deiana, casa della fata, e c'è addirittura verso Balubirde, che gli italiani hanno tradotto Valverde, ma non c'entra per nulla, una costa traforata di queste piccole case di fate, che con mirabile corrispondenza si chiama Sas Birgines, le Vergini. Si poteva essere dunque tra le selve di quell'altura un insediamento preistorico che, prima di Monsignor Roic, aveva fuggito le terribili coste e al quale la curia si è giustapposta in pacifica convivenza. E da questo connubio è venuta fuori Nuoro. Insomma, tutte le ipotesi sono possibili. E che Nuoro sia nata ieri e che sia più antica di Roma, fungendo Monsignor Roic soltanto da modesto e fatale pronubo della storia. Ma forse la più giusta è che Nuoro sia la risultante burocratica dei successivi padroni che hanno accatastato la Sardegna e in realtà vi fossero e vi sono state fino alla calata dei barbari di oggi 3 Nuoro, le parti tra cui accennavamo in principio. Nuoro è situata nel punto in cui il monte Ortobene, più semplicemente il suo monte, forma quasi un istmo diventando altopiano. Da un lato l'atroce valle di Marreri, segnata dal passo dei ladri. Dall'altro la mite, se qualcosa può essere mite in Sardegna, valle di Sporosile, che finisce in pianura. E sotto la grande guardia dei monti di Oliena, dilaga fino a Galtellì e al mare. protetta dal colle di Sant'Onofrio, che Dio sa che santo doveva essere se non ha lasciato la minima traccia di sé, neppure in un nome di battesimo, Nuoro comincia dalla chiesetta della Solitudine, che sorge su quest'istmo, scende dolcemente verso il ponte di ferro, dove par che finisca, e invece ricomincia subito dopo una breve salita, per morire davvero poco prima del quadrivio, un nodo dal quale si dipartono le paurose strade verso l'interno. È in quest'ultimo tratto che sorge la prima parte di Nuoro. Si chiama Seuna e sorge, per modo di dire, perché è un nugolo di casette basse disposte senza ordine o con quell'ordine meraviglioso che risulta dal disordine. Tutto è a un piano di una o le più ricche di due stanze, col tetto di tegole arrugginite, lo spiovente verso la cortita dal pavimento di terra come Dio l'ha fatta, il cortile chiuso da un muro a secco come si chiudono le tanche, l'apertura verso la strada sbarrata da un tronco messo di traverso, e davanti a questa singolare porta quel capolavoro di arte astratta che è il carro sardo. Il carro sardo diventa un carro quando gli sono aggiogati i buoi che ora dormono accovacciati sulle stanche gambe lungo la strada o, se vi è spazio, dentro la cortita. Allora è più che un carro, uno strumento di guerra per gli incredibili viottoli delle campagne che l'acqua ha lavato nei secoli, mettendo a nudo macini di granito che sono scale. Il carro sardo si inerpica su quelle gobbe, cigolando, ondeggia come una nave nella tempesta, rimane un poco in bilico e poi precipita fragorosamente dall'altra parte per affrontare altri sassi, altri macigni. È fatto per questo, e infatti nei secoli, nei millenni, ha lasciato nel cammino i solchi dei suoi cerchioni di ferro, che sono come le piaghe della sua fatica, della fatica dei bovi che lo scavalcano puntando sulle corte gambe oblique, dei massari che pungolano i bovi e pare che spingano e tirino anch'essi, chiamandoli responsabilmente per nome, boe porporì, boe montadì, con grida che a sera risuonano per tutta la valle. Giustamente, dicono quelli del comune, che bisogno c'è di riparare le strade? Ma quando i buoi staccano e il carro rimane lì, nella notte, davanti alle casette addormentate, non ha più nulla del carro. Poggia inclinato sul lungo timone, alza al cielo due inutili braccia levigate dallo strisciare delle soghe, si scompone in assurde verticali e orizzontali e lascia passare per le fessure della coda il chiaro della luna. Può essere un'invocazione e una preghiera, può essere una maledizione o un incantesimo, può essere nulla, anzi è assolutamente nulla. Nelle notti d'estate il contadino si stende sulle assi bruciate dal sole con la berretta ripiegata sotto la testa e dorme. Se fosse stato per Seuna, don Gabriele Mannu avrebbe potuto dispensarsi dall'andare a Roma a prendere la laurea di ingegnere. Il muratore di Seuna, il maestro del muro come lo chiamavano, riceve dalla povertà il senso delle prospettive e delle proporzioni. Tanto è vero che quando torna un arricchito e si fa una casa da ricco, vien fuori una stonatura. È come una donna che abbia lasciato il lungo costume e metta in mostra le gambe storte. I seunesi sono tutti contadini, dal primo all'ultimo. Fanno paese nel paese e si dice che costituiscano il nucleo originario dell'insediamento. Nuoro, insomma, sarebbe nata da Seuna, e io sono disposto a crederci, perché a Seuna c'è la più vecchia chiesa di Nuoro, Le Grazie, che non è poi che una di quelle stesse casette sormontata da un frontone con una campanella nel comignolo. Lo stesso prete che la ufficia è un contadino e vive delle quattro rape che coltiva nell'orto e di qualche elemosina, figuriamoci, poiché non ha cura di anime. Comunque è certo che nessun pastore penserebbe mai di abitare a Seona, dove si troverebbe degradato e spaesato. I pastori si raccolgono tutti nella parte opposta, nell'altro paese nel paese, che si chiama San Pietro, sebbene nessuna chiesa vi sia di questo nome. San Pietro, Santupredu, è il cuore nero di Nuoro. Seona è la tavolozza di un pittore che diventa quadro. Con le sue inquadrature bianche alle finestre e il cielo che sovrasta libero e sereno, potrebbe essere un villaggio marino. Basterebbe che ci fosse il mare. San Pietro non ha colori, ha case già alte che danno su vie strette che non sono più vicoli, e per vedere il cielo bisogna guardare in su. Qui Don Gabriele Mannu potrebbe essere passato benissimo e aver fatto quei grandi atri di cemento, la cucina appena si entra a destra, l'inutile sala da pranzo, le scale di pietra, le stanze vuote, anche quando c'è gente, con le sedie allineate alle pareti, e nelle cortite, che sono già corti, non c'è il carro, ma il cavallo che attende di essere inforcato, la sella appesa a un piolo sotto il portichetto, lo stesso cavallo che nel cuore della notte annuncia fatali ritorni. Il fatto è che il pastore non ha nulla a che fare con il contadino. Il pastore appartiene alla dinamica della vita, il contadino alla statica. La differenza tra il pastore e il contadino è che quello conduce una casa che cammina, questo una casa che sta ferma. Se per l'uno la terra sulla quale vendemmia ed ara è il fine, per l'altro è solo lo strumento. Se il contadino, dopo che ha zappato e potato le viti e gli ulivi, siede ai piedi di un albero e mangia il pane intinto nell'olio, si riposa, il pastore, quando siede anche lui nella grande calura meridiana, non riposa, perché la sua intera vita è senza riposo. Guarda le pecore che meriggiano, ma sa che a un certo punto queste si muoveranno col loro lento dondolio, e nessuno le potrà fermare, e andranno, ed egli le dovrà seguire, aiutato soltanto dai cani che ha avvezzato alla guerra. E poi, anche quando siede, non può non vedere quei pascoli immani che vanno da Montespada a Corte e a Lardine, a Saserra, dove sono altre greggi, altri pastori come lui. E i pensieri camminano, camminano, e solo il diavolo sa dove vanno a finire. Virgilio, servitore del principe, poteva scrivere indifferentemente le bucoliche e le georgiche. La proprietà pastorale non ha nulla a che fare con la proprietà contadina. Questa, intanto, è raccolta in certe valli e in certe pianure, è divisa in tanti appezzamenti di terra, e non ce n'è uno che assomigli all'altro. Bisogna chiedere il permesso quando si entra, anche per attraversarli. L'altra è dappertutto. È certamente divisa e accatastata, ma la legge è legge, il fatto è fatto, e nessuna legge può impedire al pastore di considerare la sua proprietà in tutto quello che l'occhio può abbracciare. E non solo la terra, ma le greggi, che intanto sono tue in quanto sei in grado di difenderle. Dio è col contadino, non è col pastore. San Pietro è il prolungamento cittadino dell'ovile. C'è anche nell'aria l'odore delle pecore e delle capre. La sera è tutto uno sferragliare di zoccoli sul selciato, perché i padroni, intabarrati nel costume, tornano a casa con le bisacce ricolme. I servi pastore tornano ogni 15 giorni per cambiarsi e rifornirsi di pane. Nell'ombra due mani prendono le bisacce e la porta si chiude dietro il padrone. Le case sono grandi perché servi e padroni vivono insieme, mangiano dallo stesso tagliere, si scaldano allo stesso fuoco, e questo rende più servi i servi e più padroni i padroni. Quando la porta si è chiusa dietro il padrone, non è facile che si riapra. I colpi nella notte non dicono nulla di buono, e chi vuole che gli si apra non ha bisogno di bussare. Se nella deserta capanna il pastore ha 1000 occhi che guardano chi crede di andare nella solitudine, in città ci sono 1000 occhi che guardano lui, servo o padrone che sia, perché tutti sono soggetti allo stesso destino. E poi c'è la giustizia, con la quale è meglio non impicciarsi. Tra l'altro, che cos'è la giustizia? Giustizia è l'autorità, il potere che uno ha sopra un altro, e l'autorità non si discute. E se ti condanna, sei ben condannato. Ma perciò giustizia è anche sottrarsi, se è possibile, all'autorità. Come è giustizia far fuori, se occorre, un eventuale testimone? Se ha già reso la testimonianza, allora la giustizia sarebbe lui. Insomma, sia come sia, quando bussano nella notte, la porta che si apre è quella di dietro, che dà nell'orto e nell'aperta campagna. Il pastore sa di essere sempre innocente per se stesso, ma non di esserlo di fronte all'autorità. Toni Servillo ha letto Il giorno del giudizio di Salvatore Satta, a cura di Anna Antonelli, Fabiana Carobolante, Lorenzo Pavolini e Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.